A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. I più pignoli li avevano nascosti dentro finte sigarette arrotolate insieme al tabacco. Qualcuno utilizza i pannolini dei bambini o finte fasciature. Molti li nascondono nella biancheria intima, ma non manca chi ricorre ancora alla vecchia valigetta con il più classico dei doppi fondi. I soldi escono ed entrano dall'Italia nei modi più disparati e negli ultimi tempi il flusso sotterraneo e clandestino di valuta ha avuto un'impennata. Quasi 79 milioni di euro sono stati sequestrati, infatti, a chi cercava di riportarli in Italia illegalmente. Più di 36 milioni, invece, stavano per prendere letteralmente il volo, diretti soprattutto in Cina o in Svizzera. Soldi in ogni caso sconosciuti al fisco italiano e quindi in parte sottratti anche alle esangui casse della Repubblica, cioè a tutti noi. Soldi che rientrano liquidi dai conti esteri degli italiani o che escano dalle casse di stranieri che qui li hanno accumulati, però spesso in nero. Un piccolo tesoretto, 110 milioni solo nell'ultimo anno, stando ai dati più recenti della Guardia di Finanza. Una cifra che in tempi di crisi e di proteste come questa fa ancora più arrabbiare. Ed allora è sui confini del bel paese che portiamo avanti questa puntata di A Ciascuno il Suo, seguendo il flusso clandestino dei soldi. Oltre a chi è un temerario e quindi in maniera tranquilla li inserisce in una valigetta piuttosto che in una borsa tranquillamente, ma ci sono attività operative che hanno consentito di rilevare dal pacchetto di sigarette, dove per esempio all'interno di ogni sigaretta, celandole in maniera, devo dire, raffinata, si può nascondere fino a 20.000 euro. Oppure se l'ha trovata chi è? Degli italiani? Degli italiani e anche in particolar modo etnia cinese. Il catalogo dei nascondigli, il gruppo della Guardia di Finanza dell'aeroporto di Fiumicino ormai lo aggiorna quasi quotidianamente, perché, come nota il comandante, il colonnello Fabrizio Giaccone, come per la droga, anche per i soldi, le tecniche diventano col passare del tempo sempre più raffinate, quanto più alto è l'interesse e più ampia l'organizzazione che c'è dietro. E allora, proprio come per gli stupefacenti, soprattutto agli scali, ormai ci sono anche i cani addestrati per seguire l'odore dei soldi e riportare a conoscenza del fisco quello che si voleva tenere nascosto. Le norme sono state sicuramente rafforzate con il cosiddetto decreto di semplificazioni del 2012, che hanno previsto chiaramente delle fasce di sequestro, di sanzioni, fino, si può dire, ai 50.000 euro il cittadino di qualsiasi nazionalità, pagando o una sanzione del 5% fino a 20.000 euro o del 15% fino a 50.000 euro contestuale, riesce a liberare la somma, quindi a rientrarne in possesso. Mentre per le somme portate al seguito al di sopra dei 50.000 euro scatta il sequestro del 50% della somma chiaramente trasportata e scoperta, e diciamo anche che gli organi accertatori, cioè il Ministero dell'Economia, sta adottando delle sanzioni importanti, perché poi successivamente questo 50% non viene quasi interamente confiscato. Ecco, chi sono le persone che voi fermate, che cercano casomai o di partire dall'Italia con dei soldi, che cercano di portare con sé illecitamente, o che cercano di rientrare in Italia con valuta illecita? Per un 34% si ragiona di cittadini di origine europea, e per il restante invece cittadini di extra Schengen, quindi di carattere di provenienza internazionale, dove un 10% per esempio si tratta di etnie cinesi, piuttosto che il 20% di etnie addirittura libiche. Ecco, potremmo dire, questo è un aspetto interessante, che negli ultimi mesi c'è stato un esponenziale incremento delle importazioni di valuta da parte dei paesi del Nord Africa. Di persone arrivate in Italia dal Nord Africa? Esattamente, in particolar modo dalla Libia, e questa ha una spiegazione chiaramente di carattere politico, geopolitico. Certo, legato a tutte le incertezze e i movimenti che, esatto, ci sono stati nel Nord Africa, quindi anche all'aumento degli arrivi, degli sbarchi soprattutto. Esattamente. Cioè, ma sono persone che quindi quindi arrivano in Italia e che al momento di ripartire dall'Italia portano con sé euro oppure che... No, in gran parte sono persone che provengono dal loro paese, quindi nel caso specifico per esempio dalla Libia, e portano valuta in Italia. Ecco, che cosa ci dice invece sugli italiani? Sugli italiani invece abbiamo sicuramente un fenomeno in gran parte diciamo riscontrato di soggetti che tendono a portare fuori la valuta. C'è una un netto aumento di soggetti che portano al seguito delle somme al di sotto dei 10.000 euro, per esempio nell'etnia cinese c'è un, oramai si è diffusa questa tecnica di portare con più cittadini, con più persone, somme parcellizzate, divise al di sotto di 10.000 euro e quindi senza incorrere in alcuna sanzione o in alcuna violazione. Ecco, ma questi sono presumibilmente cinesi che vivono o che lavorano in Italia e che quindi casomai riportano i soldi, certo, quando rientrano in Cina, giusto? Giusto. Ecco. Giusto. Ecco, al di là del fatto che anche questi, diciamo così, finiscono con l'essere degli escamotage per aggirare la legge, cioè il fatto di parcellizzare un po', di suddividere le somme tra più persone così da restare al di sotto della soglia dei 10.000 euro, quello che mi interessava adesso ancora di più capire era quello sul fronte italiani, perché ci sono gli italiani che cercano di portare i soldi fuori dall'Italia, presumibilmente perché hanno dei conti esterni, dei conti all'estero, dei conti fuori dall'Italia, e ci sono quelli che casomai cercano anche di riportarli in Italia in modo più o meno clandestino. Soffermiamoci un po' su queste due categorie. In genere con quale destinazione? L'est Europa, piuttosto che paesi anche dell'America, da intendersi Centro America, dove sappiamo esistere per esempio una serie di, anche se sempre meno di moda, paradisi fiscali, o comunque anche Europa stessa, perché ricordiamoci che insomma i vantaggi fiscali o bancari continuano ad esistere al momento in alcuni paesi europei, quali per esempio l'Austria, il Lussemburgo, piuttosto che la Svizzera stessa, anche se recentemente insomma si sta stringendo sicuramente si stanno stringendo le fila delle norme, comunque del segreto bancario. E questo ha portato già a delle variazioni riscontrabili da quanto voi potete vedere? C'è sicuramente una diminuzione del traffico in uscita verso la Svizzera e sicuramente le analisi, però in questo caso generali, del corpo della Guardia di Finanza ci consentono di dire, anche degli organi preposti, Ministero dell'Economia, Banca d'Italia, che c'è uno spostamento più raffinato, insomma, tramite canali bancari o parabancari dalla Svizzera o da paesi che rischiano di eliminare questo segreto bancario in altri paesi che tuttora lo mantengono. Sicuramente. Ecco, invece in direzione contraria, poiché è un dato anche significativo il fatto di persone che, anche di italiani, che cercano di introdurre in Italia illecitamente dei soldi. Si tratta assolutamente sì, o di cittadini che hanno magari maturato con attività economiche all'estero, o comunque che detengono già da tempo attività, anche perché ricordiamoci oggi è sempre più complicato, quindi alla fine riuscire a recuperare del denaro contante, riportarlo, averlo fuori sicuramente sì, è un vantaggio, ma fino a un certo punto, perché poi non riesco ad utilizzarlo. Quindi... Tutti questi soldi dove se li nascondevano? Dal pacchetto di sigarette, dove per esempio con un escamotage all'interno di ogni sigaretta, celandole in maniera, devo dire, raffinata, si può nascondere fino a 20.000 euro con banconote da 500 euro che vengono inserite in ognuna delle sigarette, oppure all'interno di peluche trasportati nei bagagli o all'interno di doppi fondi nelle suole delle scarpe, sulla persona, quindi la biancheria intima, o in fasce elastiche applicate direttamente sul corpo, oppure anche a qualche altro caso qualche falsa medicamento, cioè fasciatura piuttosto che ingessatura. Nel 2012 sono state 1.077 in totale le persone segnalate perché cercavano di far uscire o far entrare illecitamente soldi e titoli, e nei primi 10 mesi del 2013 sono state già 3.914 le violazioni scoperte. Dietro ciascun caso c'è una storia e soprattutto c'è un trend significativo: l'aumento di quanti cercano di far rientrare le loro ricchezze dall'estero, perché le regole anche fuori dall'Italia non sono più quelle di un tempo e perché che, di questi tempi, non trasmette di certo simpatia raccontare di avere tesoretti nascosti oltre Alpe. E allora, per cercare di utilizzare quei soldi bloccati soprattutto in Svizzera, gli spalloni dei tempi moderni, nostri connazionali soprattutto, a volte si inventano escamotage degni di vecchi thriller finanziari, come sentiremo nella seconda parte di A ciascuno il suo. A ciascuno il suo. Niente da dichiarare. Alla dogana dell'aeroporto si dirigono verso il disco verde di questa porta molti più passeggeri di quanti non dovrebbero, e con nonchalance provano a ritornare a casa con più soldi di quanti potrebbero, nascosti a volte dentro i panini, i farmaci o incartati a mo' di cioccolatini. Aveva invece fatto costruire un'apertura meccanica sotto il cambio della sua auto, quell'italiano fermato a Drezzo, nel Comasco, con 393.000 euro tutti insieme. Tanti bigliettoni da 500, come quelli inseriti in salva slip, poi incollati a caldo per non svelare l'apertura. La taglia è sempre la stessa, sempre 500 euro, sia per chi cerca di portare fuori di nascosto troppi soldi, cioè più dei 10.000 euro a persona consentiti dalla legge, o per chi quegli stessi soldi cerca di riportarli in Italia, prelevandoli soprattutto dai conti all'estero. Agli spalloni classici così si aggiungono questi nuovi corrieri di valuta, che sempre più spesso hanno invertito la rotta rispetto al passato, sempre più spesso infatti vanno da fuori verso dentro, dai vari paesi, storici forzieri di ricchezze e segreti anche bancari, in direzione di un'Italia sempre più in crisi. Non stupisce allora che sia proprio la Svizzera la principale provenienza dei soldi bloccati alla dogana dalla Guardia di Finanza. Prima di tutti c'è sempre ancora e soprattutto la Svizzera. Poi, ma per altre ragioni, compare la Germania. Quindi San Marino e la Russia. Provenivano soprattutto da questi paesi i milioni di euro bloccati al confine mentre stavano per entrare illegalmente. 78.519.416, calcola la Guardia di Finanza. E di questi la quasi totalità, più di 52 milioni, provenivano dalla Confederazione Elvetica, che con le sue banche, con la sua tradizione di segreto bancario, ha nel tempo attratto chi volesse nascondere al fisco le proprie ricchezze. Soldi che entrano dunque, ma soldi anche che partono verso la Svizzera. Nonostante tutti i cambiamenti, anche nel sistema bancario, verso i cantoni elvetici molti continuano a portare le valute. Ma nell'elenco delle mete più gettonate per far uscire di nascosto i soldi, il primo posto spetta alla Cina. Verso Pechino e Shanghai stavano per imbarcarsi i 6.623.000 euro fermati alla dogana dalla Guardia di Finanza. Sulle rotte dell'immigrazione viaggiano anche i soldi. Così le altre destinazioni sono state Sri Lanka, Egitto, Albania, Romania e diversi paesi europei, fino ad arrivare ai 36.399.000 euro sequestrati in uscita. In totale quindi circa 110 milioni di euro, un tesoretto che risolverebbe non pochi problemi a quest'Italia in perenne affanno, cifre davanti alle quali si ha ancora una volta la conferma di quanto ampie restino le ricchezze sommerse in vario modo. E nonostante tutto, nonostante le leggi cambiate, nonostante il clima radicalmente diverso verso tutti i furbetti nostrani, da quelli dello scontrino inesistente, e questo vale tanto per la manicure cinese che per il professionista italiano, fino ai proprietari di conti cifrati nei paradisi fiscali. Di sicuro rispetto al 2011 c'è stata un'impennata di sequestri di soldi per molte ragioni, perché anche i segreti non sono più quelli di un tempo e gli elenchi dei presunti evasori con conti all'estero non sono più così rari, perché la stessa Svizzera ha firmato accordi per dare informazioni sui correntisti stranieri. Ma i sequestri hanno avuto un boom anche perché sono aumentati i poteri in questo campo della Guardia di Finanza e sono cambiate pure delle regole. Se prima infatti chi veniva beccato con più di 10.000 euro risolveva la questione versando il 5% della somma, oggi si può sequestrare dal 10 al 50%, quindi è molto meno conveniente, ma ugualmente in tanti ci provano lo stesso, perché evidentemente comunque hanno fatto i loro calcoli, o perché sono pagati da altri per trasportare quella valuta. L'ombra di vere organizzazioni si percepisce infatti talvolta anche solo osservando i nascondigli più che sofisticati utilizzati per nascondere quei soldi. Uno dei voli più a rischio nello scalo di Malpensa in Lombardia per far uscire soldi è quello verso Shanghai. Davanti a quel gate, i cani della Guardia di Finanza, dei Labrador addestrati per fiutare l'odore dei soldi, vanno subito in agitazione, come racconta il tenente colonnello Giuseppe Bua. Sicuramente in ambito aeroportuale noi registriamo un fenomeno del traffico di valuta che è decisamente analogo rispetto a quello che è il traffico che noi andiamo a registrare in termini di sequestri o comunque di controlli effettuati anche ad esempio presso i valichi con la Svizzera. Tenga conto che noi abbiamo in ambito aeroportuale un trend in assoluta ascesa, ahimè. Dal 2010, quando abbiamo verbalizzato circa 650 soggetti, siamo passati al 2013 con circa 1260 soggetti verbalizzati in ambito aeroportuale. Cioè, ci faccia capire, 1260 persone che stavano cercando di introdurre in Italia illecitamente dei soldi? Introdurre o esportare? Guardi, complessivamente il dato dal 2010, 1 gennaio 2010, parliamo di circa 3700 soggetti verbalizzati per un complessivo di valuta riscontrata in ambito aeroportuale, rinvenuta in ambito aeroportuale, più di 65 milioni di euro. Per il solo 2013 abbiamo rinvenuto in ambito aeroportuale sia in importazione sia in esportazione quasi 20 milioni di euro di valuta contante, quindi le parlo proprio di banconote, di solito con pezzi non utilizzati nell'uso comune, quindi pezzi da 500 euro. 20 milioni che non esistono per il fisco italiano. Assolutamente sì, era naturalmente un tentativo di non dichiarare alle autorità doganali questo tipo di importi e ovviamente poi le sanzioni combinate tra sanzioni e sequestri che abbiamo combinato solamente nel 2013 si parla di qualcosa come 2 milioni di euro. Ecco, colonnello, come mai secondo lei c'è stato un incremento così forte delle persone che cercano di portare in Italia illecitamente dei soldi oppure di far uscire dall'Italia dei soldi? Sicuramente si tratta anche di somme che sono state sottratte all'imposizione. Tenga conto che circa il 70% si tratta di somme che sono in esportazione, quindi evidentemente frutto di forme di evasione delle più disparate. Cioè, ci faccia capire, cioè, si tratta di soldi che sono appunto frutto di evasione, che quindi si cerca di portare all'estero, casomai o in conti esteri, oppure se si tratta di stranieri, di riportarli a casa. Quindi soldi che comunque si può dire sono frutto di guadagni in nero. Sicuramente è un dato numerico che fa ovviamente riflettere. Che cosa ci permette di dire l'osservatorio di Malpensa rispetto alle persone che cercavano casomai di portare all'esterno i soldi? Guardi, tenga conto che parliamo in prevalenza di soggetti stranieri di etnia cinese piuttosto che egiziana, ma anche italiani e poi provenienti da altri paesi, insomma, come lo Sri Lanka ed altri paesi in percentuali decisamente inferiori. Quindi andiamo a individuare già quelli che potrebbero essere i voli a rischio, esportazione, importazione valuta, e andiamo a concentrarci su quei voli. Ecco, quali sono questi voli più a rischio? Più i principali? Il volo per Shanghai è sicuramente quello più significativo per i soggetti di etnia cinese, ovviamente poi anche per il Nord Africa sono anche significativi. In ingresso in Italia qual è il volo considerato da voi più a rischio? Guardi, sono di solito i voli europei di tutti i tipi, ma alcune nazioni le ha citate. Ovviamente un dato in questo senso. Cioè, quindi i voli dal Lussemburgo oppure quelli dal Belgio, quindi per la vicina Liechtenstein? Sì, è anche possibile. Abbiamo registrato fenomeni di questo tipo, sicuramente, sì. Però voglio dire in termini percentuali diversi rispetto a quelli che le ho dato precedentemente. Insomma, comunque abbiamo un 11% di cittadini italiani che esportano o importano valuta sul territorio nazionale o dal territorio nazionale. Quindi l'11%, mentre la fetta più consistente di persone che portano in Italia illecitamente dei soldi è ancora una volta cinese oppure? Sì, decisamente cinese ed egiziana. Il massimo che avete trovato tutto insieme, qual è stato? Mi ricordo abbiamo fatto un rinvenimento di valuta per un importo pari a circa 500.000 euro a un soggetto di etnia cinese, ce l'avevano segnalato, insomma aveva veramente un importo pazzesco, insomma. Che cercava di portare fuori dall'Italia? Esattamente. Ecco, e dove ce l'aveva nascosti? Che cosa vi aveva detto? Che giustificazione aveva dato? aveva cercato di occultare questi importi all'interno del proprio bagaglio, e noi l'abbiamo riscontrato, l'abbiamo intercettato e abbiamo proceduto al sequestro di una parte di questa somma. Quando si arriva su certe ordine di grandezza, vuol dire che alle spalle c'è un'organizzazione, non è? Molti di questi soggetti trasportano anche per conto di altri queste somme di denaro. Queste figure hanno sostituito o affiancato i vecchi spallone? Hanno affiancato, perché il fenomeno che lei sta citando è un fenomeno sicuramente presente. E ai valichi con le Alpi non è molto diverso. A Brogeda, in provincia di Como, un cittadino svizzero di 65 anni è stato fermato con 100.000 euro in contanti nascosti dentro una cartella in pelle. Non contento del sequestro di metà dei soldi, un'ora dopo ha provato a ripassare con ancora troppi soldi. Storie di spalloni dei tempi d'oggi, mentre l'Italia brucia. E voi cosa ne pensate? È giusto, secondo voi, aumentare i sequestri di chi cerca di far rientrare i soldi che aveva all'estero? Se vi va, scrivetecelo su Twitter a Raf Calandra oppure su Facebook alla pagina Storiacce. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti!